Dal 20 al 22 luglio 2001, in una Genova blindata, si svolge il vertice del G8, incontro informale tra i rappresentanti degli 8 paesi più industrializzati del mondo. Il G8 di Genova verrà ricordato principalmente per le azioni di danneggiamento alla città messe in atto dal cosiddetto Black Bloc e per le violente cariche da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti, che porteranno a 200 arresti, 1000 feriti e un manifestante ucciso. I primi commenti all'operato delle forze dell'ordine criticano soprattutto la mancata azione di contrasto nei confronti del cosiddetto Black Bloc, che ha agito indisturbato nel corso di 2 giornate. Probabilmente questo è il motivo che induce il capo della polizia Gianni De Gennaro ad inviare a Genova, a manifestazioni quasi concluse, il prefetto Arnaldo La Barbera, esautorando di fatto Ansoino Andreassi, vice capo della polizia. Si tratta di un cambio di strategia nella gestione dell'ordine pubblico. Io l'ho percepita come tale. E cioè ho ritenuto che si volesse passare ad una linea più incisiva di quella fino a quel momento seguita. Che vuol dire questa azione più incisiva? Significa procedere ad arresti per cancellare l'immagine di una polizia che era rimasta inerte di fronte a delle azioni di devastazione e di saccheggio della città. Per cui di fronte alla contestazione, ma che cosa hai fatto? Hai fatto devastare la città? Sì, però ho fatto anche 200 arresti. Il Genoa Social Forum era il coordinamento delle oltre 1000 associazioni promotrici del controvertice ed aveva la sua sede presso le 2 scuole Diaz, concesse dagli enti locali. Alla Diaz Pascoli c'è il Media Center con le attività dei legali, dei sanitari e dei media indipendenti. Di fronte c'è la Diaz Pertini, che diventa un luogo di accoglienza per i tanti manifestanti arrivati a Genova negli ultimi giorni. Nel tardo pomeriggio del 21 luglio i manifestanti stavano iniziando a lasciare la città. A manifestazioni concluse, le forze dell'ordine normalmente vengono impegnate per il deflusso dei manifestanti, evitando di entrare in contatto con gli stessi per non provocare reazioni. Invece, il capo della polizia Gianni De Gennaro, preoccupato di risollevare l'immagine delle forze dell'ordine, chiede che vengano costituiti i cosiddetti pattuglioni alla ricerca di Black Bloc, così come Andreassi ha dichiarato al processo. La sera del sabato, uno di questi pattuglioni transita almeno 2 volte in via Cesare Battisti, proprio davanti alle scuole Diaz, provocando una reazione delle persone presenti. Secondo numerosi testimoni, la reazione è consistita nel lancio di un oggetto e in insulti rivolti ai 4 mezzi del pattuglione. Massimiliano De Bernardini, vicequestore responsabile del pattuglione, torna velocemente in questura e relaziona ai suoi dirigenti un'altra versione dei fatti. Come ci raccontò poi lo stesso Di Bernardini quando rientrò insieme a Calderozzi, venne fatto oggetto di un fitto lancio di oggetti, di bottiglie e quant'altro, da un numero piuttosto consistente di Black Bloc, diciamo pure. È chiaro che se lì dentro si erano rifugiati 200 scalmanati che avevano tentato, che avevano aggredito un pattuglione, bisognava andarli a prendere, bisognava andarli a identificare. Questo è il motivo ufficiale della perquisizione alla scuola Diaz, che viene discusso nel corso di 2 riunioni. Durante la prima si decide di procedere, nella successiva si concordano i dettagli operativi. A presiederle il prefetto Arnaldo La Barbera. Sono presenti il questore di Genova Francesco Colucci, Francesco Gratteri, capo del servizio centrale operativo, Gilberto Caldarozzi, suo vice, Giovanni Luperi, vice dirigente dell'ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali, il prefetto Andreassi e Spartaco Mortola, capo della Digos genovese, che era stato inviato poco prima nei pressi della scuola per un sopralluogo e aveva constatato la presenza di persone vestite di nero. Ciò ha fatto ritenere alla polizia che presso la scuola Diaz si nascondessero persone armate appartenenti ai Black Bloc ed ha motivato la decisione di una perquisizione alla ricerca di armi, che non richiede l'autorizzazione del magistrato. Donnini, il responsabile del coordinamento reparti mobili durante il G8, chiede a Canterini, capo del primo reparto mobile di Roma, di radunare il suo reparto e impiegarlo per mettere in sicurezza l'edificio. Poco prima della mezzanotte, circa 300 poliziotti divisi in 2 colonne giungono da entrambi i lati di via Cesare Battisti, accerchiando i 2 edifici e preparandosi all'assalto delle scuole Diaz. I manifestanti rimasti stanno per andare a dormire. Alcuni sono davanti ai computer, altri sono in strada a chiacchierare. Alla vista dei plotoni di polizia in assetto antisommossa, si rifugiano nelle 2 scuole, chiudendo il cancello e il portone. Io facevo parte, come tanti altri colleghi, degli avvocati che avevano deciso di mettersi a disposizione del Genoa Social Forum per tutelare i diritti dei manifestanti all'interno dei cortei. Noi avevamo l'ufficio legale nella scuola Pascoli, che era quella antistante la Pertini, dove poi si sono svolti i fatti peggiori, e io quella sera ero lì, eravamo lì in un po', non più in molti, perché si veniva da 2 giorni di lavoro abbastanza intenso. Ed ero uscita per mangiare qualcosa, rientrando vedo passare una fila di blindati e dico alla persona che era con me: ma staranno per caso andando alle scuole? E lui mi dice: ma no, no, guarda, girano. Il problema è che giravano in effetti dalle scuole. Io le scene che ho impresse nella memoria sono due poliziotti del reparto mobile, che infatti con accento romanesco mi dicono: a signori, non se telefona. Il ricordo successivo è che vengo acchiappata da qualcuno del reparto mobile che, proprio perché stavo telefonando, cerca di immobilizzarmi. Dopo questa immagine ne ho un'altra, sempre in realtà più che un'immagine, è un ricordo audio, perché passano altri due in coppia e si dicono l'uno con l'altro: corri, corri, che questi pazzi stasera fanno un altro morto. Al termine dell'operazione, la polizia arresta tutte le 93 persone presenti nella scuola Pertini. 28 vengono ricoverati nei vari ospedali della città. La maggior parte di loro vengono portati successivamente alla caserma di Bolzaneto insieme agli altri 65 arrestati. A Bolzaneto sarebbero stati oggetto di torture da parte di diversi appartenenti alle forze dell'ordine e di personale medico. Se non fosse che, come la sentenza d'appello ha scritto, in assenza del reato specifico di tortura nell'ordinamento italiano, è stato possibile riconoscere solo i reati di ingiurie, percosse, lesioni, minacce e violenza privata. Tutti e 93 scopriranno solo in carcere e in ospedale di essere accusati di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata e porto d'armi. Uno dei ricordi più forti è quello della convalida, perché non avevo ancora letto gli atti e non immaginavo, anche se avevo letto i giornali, non immaginavo di trovarmi in una situazione di tale gravità, di tale emergenza. Ed è un impatto anche emotivamente molto forte, da un lato perché ovviamente sono tutte spaventate, la maggior parte ferite, quindi versano in una condizione inquietante. Tanto che ci saranno dei giudici che piangeranno durante le convalide una volta che loro mostreranno le ferite subite e racconteranno lo svolgimento dei fatti. Quello che raccontavano queste persone era assolutamente fuori da ogni precedente esperienza mia, penso anche del giudice e successivamente dei pubblici ministeri. Le ragazze erano terrorizzate e le domande, e loro erano imputate di un reato gravissimo in quel momento, che era la partecipazione a un'associazione armata internazionale denominata Blocco Nero, con delle previsioni di pena altissime in un paese straniero, in una situazione che non avevano compreso dopo un pestaggio e una carcerazione a Bolzaneto. Quindi, insomma, erano sicuramente in una condizione mentale particolare. Pensavo ci fossero delle prove abbastanza consistenti e pensavo anche che sarebbe stato difficile ottenere la scarcerazione di queste persone. E mi ricordo di aver sfogliato il verbale d'arresto davanti al GIP che me l'aveva messo a disposizione e di essermi reso conto in un attimo che in quel verbale d'arresto non c'era niente. E io ho pensato, sono riusciti a arrestare 93 persone senza fare un solo nome o cognome di chi aveva fatto questi, secondo loro, questi episodi di resistenza. Cioè, una cosa veramente surreale, nel senso che non erano riusciti a ricollegare una singola persona a una singola azione. Quando sono uscito dal carcere di Vercelli, che in mezzo alle risaie praticamente, trovai solo di 7 persone un'arrestata italiana che mi disse che tutte le ragazze scarcerate, nonostante fossero state scarcerate senza convalida dell'arresto, praticamente con tutte le scuse per quello che era successo, all'uscita del carcere erano state imbarcate sui cellulari dei carabinieri, ed espulse coattivamente perché la prefettura di Genova aveva deciso per l'espulsione, nonostante fossero cittadine comunitarie, per cui l'espulsione è praticamente impossibile per legge, nonostante non ci fosse stata la convalida dell'arresto e quindi le motivazioni dell'espulsione, cioè il pericolo per l'ordine pubblico, non avessero più senso, erano riuscite a espellerle tutte, come pure tutti gli altri arrestati Diaz. Io, che in 12 anni di professione d'avvocato non ho mai visto un'espulsione neanche dei criminali condannati per reati più gravi, avevo avuto proprio la percezione di un'amministrazione pubblica, di uno Stato che per la prima volta mostrava veramente la faccia feroce. Tutti i provvedimenti di espulsione sono stati annullati nei mesi successivi dal Tribunale Civile di Genova. Con molte difficoltà, gli avvocati hanno così iniziato la difesa dei 93, che sono stati definitivamente archiviati nel 2003 e nel 2004, dimostrando così l'infondatezza dell'arresto e delle accuse ricevute. Al contrario, proprio grazie alle loro testimonianze sulle violenze subite e sulle modalità con cui la polizia aveva condotto la perquisizione, si apre il fascicolo contro i poliziotti. Il verbale di arresto a carico dei 93 diventerà l'impianto di accusa contro gli stessi poliziotti. Gli verranno contestati i reati di falso e calunnia per quanto dichiarato sulla resistenza dei manifestanti, sull'accoltellamento dell'agente Nucera e sul ritrovamento di armi tra cui pale, mazze, barre metalliche e due bottiglie Molotov. Sia il processo che proprio la vicenda storica è centrata su questi due elementi. Prima la violenza e subito dopo la falsificazione sistematica delle prove a carico degli arrestati. Non era facile inventarsi le motivazioni per cui arrestare 93 persone provenienti da tutto il mondo che si erano trovate per caso in una scuola, legittimamente si erano trovati in una scuola perché la scuola era stata data in uso al Genova Social Forum. Io non credo che il mio ruolo dentro il processo sia stato un ruolo particolare. Nella fase delle indagini forse lo è stato di più, perché comunque noi ci siamo trovati con una procura che in qualche modo era priva dei soggetti che di solito, o comunque quasi priva dei soggetti che di solito l'accompagnano nelle indagini, per cui tutte, io ogni tanto scherzando dicevo svolgo il ruolo di polizia giudiziaria, perché comunque il ruolo che di solito svolgono le forze di polizia, le indagini eccetera, in qualche modo l'abbiamo dovuto svolgere noi, cioè io e altri colleghi che abbiamo cercato di affiancare la procura per quanto abbiamo potuto. Nelle sentenze di primo e secondo grado, i giudici hanno ricostruito la notte della Diaz basandosi sulla perizia de Ris e sulla consulenza tecnica prodotta dagli avvocati di parte civile. Attraverso decine di video, le registrazioni del 113 e del 118, le dirette di Radio Gap e Radio Popolare e i tabulati telefonici degli indagati, questa consulenza video ha permesso di definire una precisa ricostruzione spazio-temporale degli eventi di quella notte e in particolare degli spostamenti della polizia durante il blitz. A mezzanotte, circa 300 poliziotti giungono in via Cesare Battisti. In strada ci sono ancora alcuni manifestanti. Nella fase di avvicinamento alla scuola di Diaz Pertini si verificano le prime aggressioni contro 5 persone che stanno caricando le loro auto. 3 riescono a fuggire, 2 vengono manganellati sotto gli occhi di funzionari. Un mediattivista inglese, Mark Covell, viene picchiato selvaggiamente proprio davanti al cancello della Pertini. Lasciato a terra, subisce altri 2 pestaggi e viene ridotto in fin di vita. Queste immagini mostrano l'ultima fase del pestaggio. Covell perde diversi denti e dopo un ultimo colpo sulla testa sviene. Le violenze avvengono, come la stessa Corte di Appello ha scritto, nell'indifferenza generale di tutti i funzionari e dirigenti vi presenti. Nessuno verrà processato per questo episodio, vista l'impossibilità di identificare gli autori. Negli stessi istanti, alla Pascoli, sede del Media Center, vengono perquisite le stanze dei legali, distrutti i computer e asportati gli hard disk. Viene ordinato alle persone di mettersi a terra contro il muro e di uscire dalle aule. La diretta radiofonica di Radio Gap viene interrotta dalla polizia. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap. Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale. Eccoli, e sono questa entrati, fascista sono che entrati è entrata poliziotti in radio, radio. Manganello e cazzo antisommossa. In questo momento fanno la repressione in diretta su Radio Gazza. Sentiamo, sentiamo. Quattro celerini dentro, cinque. Sentiamo cosa stanno dicendo. Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono. Dalle finestre di questa stessa scuola, alcuni media attivisti riescono a riprendere l'inizio del blitz nella scuola di fronte. 200 poliziotti irrompono nel cortile della scuola Pertini, sfondando il cancello con un blindato. Secondo la versione della polizia, i manifestanti avrebbero lanciato pietre ed altri oggetti contundenti contro i poliziotti che si avvicinavano. A riprova di questa tesi ci sarebbero le immagini dei poliziotti che alzano gli scudi, insieme all'audio di un forte tonfo e di vetri infranti nel cortile. Secondo la polizia, questi rumori apparterrebbero rispettivamente ad un maglio e alle bottiglie di vetro lanciati contro i poliziotti. L'analisi comparata di diversi video, come la stessa perizia di RIS ha rilevato, smentisce la versione della polizia. È stato dimostrato infatti che il tonfo non è altro che la caduta di una panca all'apertura del portone centrale. E il rumore dei vetri è stato provocato dai poliziotti stessi che spaccavano le finestre con i manganelli. Anche il fatto che i poliziotti avessero alzato gli scudi a testuggine non indica che fossero oggetto di lanci. Questa tecnica rientra nella normale procedura utilizzata nell'avvicinamento ad un edificio. Sarà lo stesso Gabriele Ivo, agente del settimo nucleo che ha partecipato all'irruzione, a ricordarlo durante il processo. Per le persone che si trovano all'interno della scuola, l'irruzione della polizia è l'inizio di un incubo. Sono pochi minuti, ma interminabili. A mezzanotte il portone viene forzato e fanno irruzione le prime squadre del settimo nucleo antisommossa. Si scagliano contro le prime persone che si trovano davanti, un gruppo di 11 spagnoli in ginocchio con le mani alzate. Vengono poi pestati tutti gli altri presenti nella palestra, 12 persone, alcune ancora nei sacchi a pelo. Intanto altri poliziotti salgono ai piani superiori, entrando anche dalla porta laterale. Passando, distruggono i computer delle postazioni internet. Al primo piano, 38 persone aspettano nel corridoio con le mani alzate. Vengono fatte mettere a terra ed inizia un pestaggio brutale e sistematico. In questo corridoio si hanno alcuni dei feriti più gravi. Sul pianerottolo tra il primo e il secondo piano, due persone vengono raggiunte mentre cercano di uscire sui ponteggi, dove altri sono riusciti a scappare. Vengono pestate senza interruzione da tutta la polizia che sale le scale. Al secondo piano si trovano 15 persone. Qui a iniziare il pestaggio non sono solo uomini del settimo nucleo. Entra in azione anche altro personale, anche poliziotti in borghese. I pestaggi non sono comunque meno violenti. Al terzo piano i poliziotti non trovano nessuno e si accaniscono particolarmente contro infissi e arredi. Al quarto piano 8 persone, sentendo le urla e i rumori del pestaggio, si sono nascoste nelle aule e nei bagni. Vengono tutti raggiunti da decine di poliziotti che si scatenano in pestaggi di particolare ferocia. Anche a questo piano alcuni dei feriti più gravi. Intanto in tutta la scuola si sfondano porte alla ricerca di altri manifestanti. Circa 10 persone hanno cercato di nascondersi o sono ancora nelle aule in cui dormivano. Vengono trovate e a loro volta pestate. Mentre si completa la cosiddetta messa in sicurezza della scuola, poliziotti di ogni reparto continuano ad accanirsi su persone a terra ferite gravemente. Questa animazione è il risultato dell'incrocio dei video ripresi dal Media Center e delle testimonianze rese in tribunale dalle parti offese e da poliziotti del settimo nucleo. In base a questa ricostruzione, l'operazione di messa in sicurezza si svolge in almeno 5 minuti. Un pestaggio feroce è seguito con calci e pugni, manganelli speciali, i cosiddetti tonfa, e armi improprie, come bastoni e mazze da baseball portate da casa. Con la sentenza di condanna in secondo grado, per la Corte di Appello si può parlare di esplicito incarico di usare la forza per compiere lo sfondamento e l'irruzione senza alcuna preventiva o successiva forma di controllo sull'uso di tale forza. La responsabilità di tale condotta, e quindi delle lesioni inferte, è pertanto ravvisabile in capo ai dirigenti che organizzarono l'operazione e la condussero sul campo. I tonfa utilizzati alla rovescia hanno provocato danni gravissimi. Solo 7 persone su 93 escono fisicamente indenni. Oltre a un certo numero di poli contusi, i feriti sono una 60. Di questi, 5 sono in pericolo di vita. Si fanno operazioni d'urgenza per perforazione dei polmoni ed emorragia cerebrale. 21 persone hanno fratture anche multiple agli arti superiori, tipiche di chi cerca di proteggersi. 7 hanno costole rotte, 2 una gamba. 11 hanno subito fratture facciali o perdita di denti. Sono stati colpiti anche i genitali e uno ha un testicolo lesionato. A 35 persone è diagnosticato un trauma cranico. I corpi sono ricoperti di ematomi e ferite lacero-contuse. Molti hanno danni permanenti. Alla violenza si aggiungono le offese sessuali, come la simulazione del coito davanti a persone a terra nel proprio sangue, gli insulti, gli sputi e le minacce di morte. All'irruzione alla Diaz Pertini hanno partecipato i poliziotti di diversi uffici, Digos, squadre mobili, prevenzione. Per la cosiddetta messa in sicurezza dell'edificio è stato impiegato il settimo nucleo del primo reparto mobile di Roma, un reparto speciale super addestrato, equipaggiato con manganelli tonfa. Lo stesso reparto che il giorno precedente ha partecipato all'ultima carica al corteo dei disobbedienti, infierendo sulle persone rimaste ai margini con calci, pugni e tonfa usati alla rovescia. Sono 70 uomini, suddivisi in 7 squadre, comandati da Vincenzo Canterini e Michelangelo Fournier. Fournier dichiara di essere stato tra i primi a entrare nella scuola e di essersi subito diretto al primo piano. Secondo la sua versione, accortosi del pestaggio effettuato da poliziotti non appartenenti al suo reparto, egli stesso avrebbe messo fine alle violenze perpetrate dagli agenti urlando «basta, basta». Fournier quantifica in 2 minuti la durata dell'intera azione. L'analisi dei video, anche in questo caso, ha permesso una ricostruzione diversa dei fatti, indicando con certezza che l'azione del pestaggio si è protratta per almeno 5 minuti. Dopo 3 minuti e mezzo dall'inizio del blitz, i funzionari entrano nella scuola Pertini. Si riconoscono Luperi e il capo dello SCO Gratteri. Solo dopo si accendono le luci al primo piano. Si vede il poliziotto denominato Coda di Cavallo e altri tra cui alcuni del settimo nucleo, mentre seguono il pestaggio allo stesso piano in cui Fournier dichiara di aver urlato «basta, basta». Questo farebbe pensare che Fournier abbia chiesto ai suoi uomini di interrompere le violenze solo successivamente alle sequenze di questo video, e quindi dopo almeno 5 e non 2 minuti dall'inizio del blitz. Anche le operazioni di perquisizione vengono condotte con metodi inusuali. Il contenuto degli zaini svuotati viene ammucchiato indistintamente e particolare interesse viene dato all'abbigliamento di colore nero. Vengono sequestrati coltellini multiuso e a serramanico e attrezzi provenienti in larga parte dal cantiere esistente presso la scuola. Durante la perquisizione, degli agenti estraggono le stecche di alluminio dalla struttura degli zaini, presentate poi nel verbale di sequestro come armi improprie. Ai parlamentari e agli avvocati è stato impedito di assistere alla perquisizione, sono stati strattonati più volte e sono stati allontanati senza nessuna considerazione per le loro prerogative istituzionali e per il loro ruolo di garanzia. Mi ha strattonato per un prezzo! Sì, voglio sapere il suo nome! Alla Diaz quella notte giunge anche Roberto Sgalla, responsabile dell'ufficio relazioni esterne, che aveva avvertito tutte le principali testate giornalistiche ancor prima dell'inizio del blitz, dimostrando così le aspettative di riscatto mediatico che la polizia aveva nell'operazione. Davanti alla Diaz, a operazione ancora in corso, Sgalla rilascia le sue prime dichiarazioni ai numerosi giornalisti presenti, preoccupandosi di sostenere che le ferite presentate dagli arrestati erano riconducibili agli scontri dei giorni precedenti e dando grande risalto ai capi di abbigliamento rinvenuti di colore nero, a conferma, secondo la polizia, del successo dell'operazione. Al contrario, la perquisizione non porta ad alcun rinvenimento di armi e di fronte a decine di manifestanti insanguinati e numerosi giornalisti presenti, per recuperare l'immagine dell'operazione ancora in corso, qualcuno deciderà di inscenare due falsi clamorosi. Uno di questi è l'accoltellamento a danno dell'agente Massimo Nucera da parte di un non individuato manifestante. Le successive indagini dei RIS dimostreranno l'incompatibilità tra i tagli riscontrati sul giubbetto con il racconto della falsa aggressione fornito dallo stesso Nucera. Per la Corte d'Appello, l'episodio costituisce una delle più gravi e sfrontate messe in scena di questo processo. L'altro episodio riguarda le due bottiglie Molotov sequestrate alla Diaz. Grazie alle indagini, alcuni mesi dopo, incredibilmente, si scoprirà che erano state ritrovate in Corso Italia il sabato pomeriggio dal vicequestore Guaglione. Guaglione le consegna a Donnini, che le lascia nel suo blindato, lo stesso con il quale alcune ore dopo il suo autista Burgio trasporterà il vicequestore Troiani alla Diaz. Nello studio di questi atti, a un certo punto, durante una riunione, mi rendo conto che sono state sequestrate due bottiglie Molotov che potrebbero serenamente essere quelle ritrovate alla scuola Diaz. Io devo dire, non lo so perché mi viene questo dubbio. Bisogna dire però che la situazione, anche quando questo succede, che erano parecchi mesi dopo la fine del G8, la situazione era ancora ampiamente surreale, nel senso che il fatto che mi venga questo dubbio è determinato anche dal fatto che questi processi e tutto il resto, queste indagini e tutto il resto si svolgevano appunto in un clima di grande, molto bizzarro rispetto a quello che è lo svolgimento dei processi consueti, per cui in questo clima a uno può anche serenamente venire in mente che quelle due Molotov che vengono sequestrate in Corso Italia, essendo poi le uniche due, potrebbero serenamente essere quelle altre. Io questo dubbio me lo faccio venire e un po' da sola ci rido sopra, nel senso che lo dico a un paio di colleghi, i quali insomma mi dicono anche un po' hai visto troppi film o sei molto stanca, e ne parlo anche con il procuratore. Anche il procuratore non mi dice sei un po' stanca o è un po' stanca, avvocato si riposi, ma mi dice facciamo una verifica. Non stiamo a rendere la cosa troppo pubblica, facciamo una verifica. La verifica la fanno ovviamente loro, cioè il mio ruolo è semplicemente questo di dire che forse potrebbero essere, e la verifica va a buon fine, nel senso che viene contattato Guaglione, gli vengono mostrate le foto delle Molotov della scuola Diaz, ovviamente senza far menzione del fatto che fossero quelle, e lui le riconosce come le Molotov da lui reperite in Corso Italia. A quel punto, con veramente un senso però di surrealtà grande, nel senso che la Diaz era un episodio molto brutto per il livello di lesioni, per il livello di aggressività che si era sviluppata nei confronti delle vittime, era evidente a tutti. Che fosse un episodio che in quella notte era stato percepito in maniera particolarmente forte, cioè la gente che quella notte non è andata a dormire a casa pensando che quello fosse solo l'inizio di una sorta di rastrellamento collettivo dei partecipanti alle manifestazioni di Genova. Però che potessero essere arrivati a tanto, nemmeno noi ci credevamo davvero. A 10 mesi dall'inizio dell'indagine, i PM mostrano agli indagati un filmato dell'emittente genovese Primo Canale che riprende un gruppo di poliziotti nel cortile della scuola Diaz, con il sacchetto azzurro contenente le due Molotov. Attorno al sacchetto, Luperi, Caldarozzi, Murgolo, Gratteri, Canterini, Mortola, Burgio e Troiani, riuniti nel cosiddetto conciliabolo. Nessuno di loro aveva ammesso fino a quel momento di aver visto le Molotov nel cortile. Le indagini del processo ricostruiscono i fatti. Dal blindato sul quale Donnini aveva depositato le Molotov ritrovate il pomeriggio in Corso Italia, il suo autista Burgio, su ordine di Troiani, porta le bottiglie nel cortile della scuola. Le consegna a Troiani stesso, che le dà di Bernardini, che le mostra a Caldarozzi, poi Gratteri, Mortola, in ultimo Luperi. Luperi, immortalato con il sacchetto in mano, racconta solo successivamente di averle affidate alla Digos Mengoni, Questa, interrogata a sua volta, chiude il cerchio dichiarando di averle consegnate ad un Digos di Napoli, mai trovato negli elenchi dei poliziotti presenti quella notte alla Diaz. Secondo la sentenza di appello, tutti i poliziotti presenti al conciliabolo, ben consapevoli che le Molotov non provenivano dall'interno della scuola, decisero che tali ordigni potevano essere utilizzati come elemento decisivo per poter procedere all'arresto di tutti i presenti con l'accusa associativa finalizzata alla devastazione e al saccheggio. Grazie a questi elementi, nel 2004, il giudice dell'udienza preliminare Daniela Farraggi rinvia a giudizio 29 poliziotti indagati per diversi reati. Nel 2005 si apre il processo. 89 tra i 93 manifestanti archiviati si costituiscono parte civile. Il poter dire in un'aula di tribunale davanti a tre giudici, comunque pubblicamente, quanto era accaduto, poterlo raccontare per molti di loro ha avuto un effetto catartico, possiamo dire. Comunque l'hanno detto tutti, cioè il fatto di avere una situazione in cui quelle cose venivano non soltanto ascoltate, ma venivano ascoltate per... e venivano assunte come cose vere alle quali doveva essere dato poi un seguito giudiziario. È stato molto importante. L'atmosfera del processo di primo grado non è facile da raccontare. Sicuramente non era un'atmosfera serena. Io la prima impressione non positiva che ho avuto proprio nelle fasi iniziali è stata quando lessi, trovandolo nel fascicolo del dibattimento, la decisione del presidente della sezione di non concedere alle televisioni che ne avevano fatto richiesta di riprendere il processo. Io non so che effetto poteva avere sentire, ad esempio, Lena Zulke, che è stata forse la prima testimone interrogata in tribunale, sentirla in televisione e raccontare con tutta l'efficacia del messaggio televisivo tutta la sua vicenda all'interno della Diaz, sentire questa ragazzina che diceva di come è stata picchiata, di come è stata trascinata per i capelli giù dalle scale, di come è stata lasciata tramortita e di quando alcuni agenti di polizia sono passati vicino e si sono tirati giù il fazzoletto che gli copriva il volto, le hanno sputtato addosso e con lei che non riusciva neanche a proteggersi la faccia perché non riusciva più a muovere neanche le braccia per le botte che aveva prese. Può sembrare un aspetto marginale, però un processo come questo non si fa solo per decidere, diciamo così, se un imputato è colpevole o non colpevole, ma perché c'è un interesse pubblico fortissimo a capire e a diffondere la ricostruzione storica, giudiziaria di quello che è successo. Questo fatto che fosse un processo contro la polizia è percezione che la procura, io credo, non abbia mai avuto, non l'abbiamo mai avuta noi e sicuramente non era così, l'hanno avuto invece i poliziotti, che l'hanno da quasi subito interpretato come un processo alla polizia e così hanno voluto vederla, io credo, fino adesso, nel senso che comunque noi ci siamo sentiti dire nel corso del primo grado che tutti questi alti papaveri della polizia italiana non si sono presentati in procura da dopo un determinato momento, che è stato quello in cui secondo loro hanno subito una sorta di imboscata, ovvero la giornata in cui vengono interrotti gli interrogatori, mostrato il video del conciliabolo e ripresi gli interrogatori. E poi non si sono presentati neanche in udienza, suppostamente perché c'era grave pregiudizio nei loro confronti e in generale nell'apparato del Viminale. Ma il fatto che l'abbiano percepito in questo modo non è attestato soltanto dal comportamento degli imputati, ma è attestato dal comportamento di tutto il Viminale, nel senso che ci sono state delle operazioni, come abbiamo visto anche da parte del capo della polizia, che è stato condannato recentemente in corte d'appello per induzione alla falsa testimonianza, che obiettivamente fanno pensare a un coinvolgimento di copertura, anche non di copertura in termini illegali, ma insomma sicuramente di grande solidarietà da parte di tutto l'apparato di polizia nei confronti degli imputati. Nel corso del processo Diaz sono emersi diversi episodi che hanno dato luogo ad ulteriori indagini e procedimenti penali. Un primo episodio è quello verificatosi nel gennaio del 2007, quando i difensori degli imputati chiedono che vengano mostrate in aula le due bottiglie Molotov. Le Molotov non si trovano e ne nasce un'indagine con la quale si scopre che sarebbero state distrutte da ignoti funzionari. Altre novità emergono il 3 maggio, durante la deposizione di Francesco Colucci, l'allora questore di Genova. Tra amnesie e contraddizioni, presenta in aula una versione dei fatti diversa da quella rilasciata durante la fase delle indagini. In particolare, al processo, dichiara che fu una sua iniziativa telefonare a Sgalla per chiedergli di andare alla Diaz. Al contrario, nei precedenti interrogatori, aveva sostenuto che questa iniziativa era partita direttamente dal capo della polizia, Gianni De Gennaro. Gli obiettivi della testimonianza sembrano così voler cancellare le responsabilità del capo della polizia. A seguito di questa deposizione, la procura di Genova apre un procedimento contro Colucci per falsa testimonianza. Grazie alle intercettazioni telefoniche si scoprirà che fu De Gennaro a chiedere a Colucci di cambiare versione. Condannato in appello ad 1 anno e 4 mesi, secondo la sentenza ha istigato Colucci a dire il falso, usando il rapporto gerarchico esistente tra i due. Questa è l'intercettazione telefonica in cui Colucci racconta a Mortola quali sono state le richieste di De Gennaro in vista della sua deposizione al processo Diaz. Sì, pronto? Franco, eccomi, sono Spartaco. Ciao Spartaco. Senti una cosa, io sono stato a Roma, sotto natura da Roma, e praticamente io il giorno 3 devo andare a Genova. Il capo mi ha dato le sue dichiarazioni, dove praticamente tiene ben testa, diciamo, al magistrato, e ha fatto un po' di marcia indietro per quanto riguarda se io l'avevo vestito o meno per la Diaz. Sì. Cioè, sì, forse sbaglio io, tante telefonate sono state. Mi ha detto qualche cosa, però io comunque e così via. Mi ha fatto leggere, poi dicevo io, bisogna che tu un po' aggiusti il tiro sulla stampa. Però dici tu, per quanto riguarda l'altro fatto, dovresti fare un po' di marcia indietro, dare una mano ai colleghi, e qual è quella di che io la stampa l'ha portato. Io l'ho informato Sgalla, ma l'ho informato come penso io come referente delle pubbliche relazioni. Un ultimo episodio è la mancata identificazione di un poliziotto in borghese, definito coda di cavallo. Questo filmato lo ritrae mentre con un bastone in mano trascina a terra una persona che riporterà gravi lesioni. La procura invia a tutte le questure d'Italia la richiesta di identificare questo poliziotto. Coda di Cavallo era in servizio presso la squadra mobile di Genova, il cui dirigente era stato incaricato dai PM di identificarlo. Nessuna delle foto ricevute corrisponde a Coda di Cavallo, che verrà identificato solo nel 2008 grazie a questo video che lo ritrae durante il blitz alla scuola Diaz. Si tratta di un agente Digos operante proprio presso la questura di Genova, presente a tutte le udienze in cui le parti offese hanno deposto durante il processo. La Corte d'Appello, nelle motivazioni, ma nella ricostruzione della vicenda e anche dei contorni della vicenda, è andata oltre le aspettative, mantenendosi però nei confini di quello che sapevamo. Cioè, nel senso che noi abbiamo provato a fornire sia in primo grado che poi in secondo grado una ricostruzione dei fatti che era spiegata non soltanto dai fatti materiali di quella notte, ma anche da tutto il contorno, quindi anche dagli antefatti, da quello che era successo nelle ore precedenti e da quelle che erano le finalità di quell'operazione. Tutto il materiale probatorio, che come la Corte d'Appello stessa dice è ampio, evidente e chiaro, si tiene se si interpretano i fatti alla luce di questo. Cioè alla luce di un'operazione che doveva risollevare l'immagine della polizia italiana, che era stata decisa, non l'operazione in sé, ma comunque insomma quel tipo di impostazione che era stata decisa direttamente dal capo della polizia e poi delegata prevalentemente ai funzionari dello SCO. Dopo 3 anni di indagini e 6 di processo tra primo e secondo grado, 25 poliziotti vengono condannati complessivamente a 85 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dei pubblici uffici. Ai manifestanti costituitisi parte civile è stato riconosciuto un primo risarcimento danni per un totale di 1 milione di euro. Per me è stata una parte di vita grossa, questa sinergia molto bella che si è sviluppata anche fra colleghi, consulenti e tutte le persone che in questi anni comunque ci sono state vicine e ci hanno aiutato, non si verifica sempre, è stata una perla rara comunque. forse perché comunque partiva da un percorso collettivo e in qualche modo lo è rimasto anche in sede processuale. Dopodiché io non ho veramente mai avuto un dubbio rispetto al fatto che questo processo andasse fatto e che rispetto a questo processo il mio livello di impegno dovesse essere il 100%. Cioè, io ogni tanto lo dico per scherzo, ma il che il processo Diaz è un po' il processo della mia vita, o perlomeno fino adesso sicuramente lo è vero, lo è stato dall'inizio. È stata fatta un'operazione di polizia con la presenza del vice capo della polizia, di tutti i dirigenti dei più importanti settori della polizia. È stato fatto un arresto di massa, di 93 persone che, ripeto, erano venuti qui a esercitare il loro diritto, uno dei diritti più importanti costituzionalmente previsti, quello di manifestazione del pensiero. Sono stati arrestati 93 attivisti politici, sono stati massacrati di botte, sono stati infilati a Bolzaneto con tutto quello che significa. È stata costruita una montagna di prove false contro di loro per screditare con l'effetto, comunque, non so se l'intenzione era quella, per screditare loro, con l'effetto di screditare loro e di screditare l'associazione, le associazioni che avevano promosso le proteste. E tutto questo chiaramente non è un problema giudiziario, cioè ridurlo a un problema giudiziario è veramente sottovalutare quello che è successo, è un problema politico. Io non credo che la politica abbia, né durante i giorni del G8 né successivamente, consegnato alla polizia un ruolo, per qualunque motivo, un ruolo che avrebbe voluto mantenere o avrebbe dovuto mantenere. Io credo che la politica, tra virgolette, ovvero i partiti, insomma, la politica parlamentare, eccetera, questo ruolo alle forze dell'ordine di trattare con i movimenti e la protesta purtroppo sia una cosa che fa da diversi anni, non certo dal 2001, ma forse anche da prima. Io temo che l'idea di movimenti sociali, di proteste, eccetera, come una risorsa imprescindibile per la buona salute della democrazia, sia purtroppo un'idea che ci siamo persi per strada una manciata d'anni dopo la guerra. Credo che sia rimasta fino agli anni 70 e quindi io non credo che sia stata una delega data alle forze di polizia, quella diciamo di gestire i movimenti sociali nel 2001, ma poi anche a seguire perché era una cosa che la politica non riusciva a fare. Io credo che sia una cosa che la politica non fare, non vuole fare più e non vuole fare più da tempo. Quando dico della politica, dico di tutti, perché all'interno il processo Diaz è stato utile anche per scoprire finalmente che rispetto a determinate cose non c'è bandiera che tenga, non c'è colore che tenga. Il capo della polizia andava tenuto su dai governi di centro-sinistra come andava tenuto su da quelli di centro-destra. In qualsiasi paese civile, se si massacrano di botte 100 attivisti che partecipano a una manifestazione di questo tipo e se si arrestano senza motivo, nel momento in cui un giudice dice non potevate arrestarli, ci vuole un'immediata riconoscimento di responsabilità politica. E questo non c'è stato e non c'è stato nell'immediatezza e non c'è stato neanche nei 10 anni successivi. Io credo che ci siano stati e un po' sono anche emersi anche degli interventi diretti da parte della politica su questo processo, nel senso che io credo che ci si sia anche un po' dati da fare perché non dico la magistratura non facesse il suo lavoro, ma sicuramente ci fosse un po' un occhio di riguardo nei confronti di imputati che comunque vengono definiti da tutti in maniera assolutamente trasversale i migliori poliziotti che abbiamo in Italia. Cioè, nessuno ha mai neanche pronunciato la frase, se questi hanno veramente fatto, cioè, sospendiamoli fino alla fine del processo. Mai assolutamente nessuno. Questi non sono stati soltanto accusati, sono stati condannati per dei reati molto gravi. Nessuno di loro, si è dimesso ed è andato a casa, sono tutti più o meno nei loro posti. E quello che ha fatto lo Stato, ripeto, con assoluta unanimità fra i due schieramenti in tutti questi anni, è stato sostanzialmente tenerli dove erano o fargli fare addirittura qualche avanzamento di carriera. Sarebbe chiedere troppo che la persona che ha confessato di aver messo le molotov dentro la scuola fosse sospeso, pur davanti all'evidenza. Però non è mai stato riconosciuto che qualcuno ha sbagliato, mai, mai è stato riconosciuto che qualcuno ha sbagliato, mai è stato chiesto scusa. Stiamo aspettando ancora i risarcimenti dei danni per Bolzaneto, insomma. Mancata ogni forma di riflessione su quello che è successo, il che fa pensare che potrebbe succedere ugualmente in futuro la stessa situazione. Grazie.